Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I giovani che qui riposano sono morti anche per noi, per ciascuno di noi. God bless you, God bless our friendship, God bless our peoples. E rieccoci, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Mi stavo confondendo con l'inglese impeccabile di Renzi, che era oggi per il Memorial Day, dopo alla fine dei 70 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, a ringraziare a San Casciano, dove c'è il cimitero dei soldati americani, e ricordare tutti gli americani che sono morti per la liberazione dell'Italia. Quindi vuol farvi sentire questo suo inglese anche in questa occasione, piuttosto enfatico, ma naturalmente anche la situazione lo richiedeva. Partiremo oggi dai disordini, uno dovrebbe diciamo soffermarsi su altro tipo di notizie, però toccherà parlare anche di quello che è successo prima e dopo il derby romano. Poi parleremo naturalmente anche di questa ventata così di novità e sicuramente di sorpresa relativamente, perché un po' ce lo si aspettava, del voto spagnolo del movimento Podemos, che inquieta l'Europa, diciamo così, almeno quelli che preferivano che non ci fosse questo grande successo degli euroscettici, che inquieta l'Europa, così come anche quello che sta succedendo in Grecia, perché è arrivata la notizia nel fine settimana che la Grecia non aveva intenzione di pagare i debiti al Fondo Monetario Internazionale. Poi adesso invece il governo assicura che è una cosa che si farà nel più breve tempo possibile, però i listini sono andati giù, sapete come sono suscettibili a seconda di quello che succede in Europa e nel mondo. Naturalmente basta un soffio di vento, a proposito di ventate, dalla Spagna, dalla Grecia e anche dalla Polonia. Insomma, parleremo molto di politica internazionale, ma anche ovviamente attraverso adesso la ricostruzione della giornata di politica interna, perché sapete che è l'ultima settimana questa di campagna elettorale. Vi ricordo che se volete intervenire con i vostri due canali privilegiati qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS al 349-238-6666, l'argomento che vi vorrei lanciare è quello delle unioni civili. Sapete che c'è stato il voto in Irlanda, il referendum che si è detto favorevole ai matrimoni gay. Poi c'è una novità che riguarda l'Osservatore Romano, che è il giornale del Vaticano, che dopo nei titoli vi anticiperò che cosa ha detto. E a questo punto Renzi ha promesso che per luglio ci dovrebbe essere una legge alle Camere sulle unioni civili. Secondo voi è la volta buona? Per usare uno slogan di Renzi, è la volta buona? Si farà questa legge per le unioni civili in Italia? 349-238-6666 per gli SMS, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso andiamo con il riassunto della giornata. E cominciamo naturalmente dalle elezioni spagnole. Successo di Podemos, il Partito Popolare resta in testa ma cala, e Renzi avverte sono segnali per Bruxelles. La crisi greca, il governo assicura faremo ogni sforzo per pagare il Fondo Monetario Internazionale, presto l'accordo, ma i listini intanto vanno giù. Occupazione, secondo i dati del Ministero del Lavoro sono 210.000 i nuovi contratti ad aprile, crescono quelli a tempo indeterminato, e più tardi qui ci sarà in collegamento la sottosegretaria al lavoro Teresa Bellanova. Politica italiana, rush finale per le amministrative, Renzi in Liguria sgombra il campo, qui nessun laboratorio nazionale, dice. Lo studente è morto in gita a Milano, sequestrati i cellulari dei compagni, gli inquirenti fanno sapere che dagli amici ci sono racconti utili. Pordenone, azzannata da un cane, muore una bimba di 2 anni e mezzo, il padrone dell'animale rischia di essere incriminato per omicidio colposo. E poi la notizia di un incidente sulla Napoli-Bari, 4 morti, un pulmino con 9 operai si è schiantato all'altezza di Baiano, anche 4 feriti in gravi condizioni. Unioni civili, dopo il voto favorevole dell'Irlanda ai matrimoni gay, l'Osservatore Romano dice nessun anatema, ma piuttosto bisogna riconoscere la realtà dei fatti, e Renzi annuncia una legge sul modello tedesco per luglio. Calcio, la Roma vince per 2-1 il derby, gravi 2 tifosi accoltellati all'Olimpico prima della partita, gli scontri proseguono anche adesso. Partiamo quindi dal voto in Spagna, che agita l'Europa insieme alla crisi greca. Ha quasi 37 anni il codino, il nuovo volto della Spagna. Si chiama Pablo Iglesias ed è alla guida di Podemos, il partito anti-austerity che ha spinto nell'angolo popolari e socialisti. I partiti del potere hanno ottenuto uno dei peggiori risultati della loro storia, urla davanti alla folla il leader dei Post Indignados. I due grandi partiti che per 40 anni si sono alternati alla guida del paese arrivano ancora alla maggioranza, ma solo sommando i loro voti. La sconfitta è soprattutto per Rajoy, colpa anche di una gestione lacrime e sangue sangue della crisi, il partito è sempre più votato ma con il 27%, 10 punti in meno del 2011. I socialisti scendono al 25% dal 27%, poi le nuove forze, Podemos con il 10% e Ciudadanos con il 7%. Cadono le grandi città, Barcellona con un 25,2%, passa alla sinistra di Ada Colau, i popolari si fermano al 22,7%. A Madrid i popolari sono ancora in testa come negli ultimi 20 anni, ma con un 34,4% rischiano di non poter governare, mentre un'alleanza con i socialisti darebbe le chiavi della città a Manuela Carmena e al suo 32%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda le reazioni italiane, Renzi avverte il vento di Grecia, Spagna e Polonia, dice che l'Unione Europea deve cambiare, e il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in visita in Serbia dice non bisogna lasciarsi tentare dall'euroscetticismo. Ma adesso colleghiamoci subito a Roma con Francesco De Remigis, il nostro De Remigis, che ci racconta che effettivamente non è finita quei due gravi accoltellati che ci sono stati prima del derby, Francesco. È proprio così, perché a fine partita c'è stato un risvolto che nessuno si aspettava, si temevano scontri come c'erano stati nel pre-partita tra tifoserie romaniste e laziali, invece gli scontri sono stati fra le tifoserie e le forze dell'ordine. L'epicentro è in questo piazzale dove mi trovo in questo momento, dove solo 5 minuti fa sono stati realizzati gli ultimi fermi dalle forze dell'ordine, perché le persone della tifoseria laziale in particolare sono transitate nell'area che era fortemente presidiata dalla polizia in tenuta antisommossa. Ci sono stati dei lanci di bottiglie, la polizia è rimasta ferma nei primi momenti, poi sono arrivati i lacrimogeni sempre dalle tifoserie e lì la polizia ha risposto con delle cariche che dal piazzale della Farnesina si sono portate e inoltrate fino a Ponte Milvio, quindi ci sono stati ampi spazi di questa zona con macchia di leopardo di tifoserie che attaccavano la polizia e la polizia che rispondeva con i lacrimogeni. Decine i fermati, tanta paura anche per i civili, perché molte persone della tifoseria laziale, tranquille, famiglie, si sono trovati in mezzo, anche come noi giornalisti, a questo lancio di lacrimogeni, e solo 10 minuti fa è stato permesso dalle forze dell'ordine di allontanarsi da quest'area. La priorità era quella di allontanare e isolare a macchia di leopardo quei gruppi di tifosi violenti che hanno iniziato questa sorta di guerriglia urbana. Francesco, e poi si hanno notizie ulteriori dei due feriti, due accoltellati erano tra i tifosi, tra l'altro? Le ultime notizie, i due tifosi erano romanisti, sono stati ricoverati immediatamente al Policlinico Gemelli. Per il primo, un ragazzo di 31 anni, solo 10 punti di sutura per la ferita all'addome da arma da taglio, per l'altro invece si parla di una notte in ospedale, l'altro ha 38 anni. Però c'è ancora tanta paura qui fra i tifosi, la polizia non ha ancora assolutamente abbandonato piazzale di Ponte Milvio, dove ci sono almeno un centinaio di camionette, perché si stanno verificando le ultime condizioni di tranquillità e se ci saranno soltanto in quel momento lasceranno andare tutte le persone. Sta riprendendo gradualmente il traffico e si contano i fermati, che sono più di una decina. Grazie Francesco De Remigis, veramente una vergogna che si deve perdere tanto tempo, tante energie, soldi, polizia per queste cose. Comunque spostiamoci sul fronte greco, le tensioni greche continuano a pesare sui mercati europei, vi dicevo lunedì nero per la borsa di Atene che ha chiuso a meno 3,20% sui timori dei mancati pagamenti al Fondo Monetario Internazionale. Ma anche il resto d'Europa, Piazza Affari ha chiuso in deciso calo col FTSE MIB che perde il 2,09%, e poi di questo torneremo a parlare tardi nel corso della puntata. Per quanto riguarda l'occupazione in Italia, secondo i dati del Ministero del Lavoro sono 210.000 i nuovi contratti ad aprile, crescono quelli a tempo indeterminato, e su questi dati interverrà, vi dicevo tra poco qui effetto notte, la sottosegretaria al Ministero del Lavoro Teresa Bellanova. E siamo alla politica con il rush finale per le elezioni regionali amministrative, per le quali si voterà domenica prossima. Corre in Liguria Matteo Renzi per accertarsi di non perdere quella che sta diventando la regione chiave della tornata elettorale. La divisione del centro-sinistra tra Pastorino, candidato di Selle di Civati, e Paita, candidata quest'ultima del PD, rischia di consegnare la vittoria a Giovanni Toti di Forza Italia. Ma il Premier nega una lettura nazionale sul voto regionale. Da qualche giorno stanno dicendo la Liguria è il laboratorio della politica nazionale. Qui non stiamo discutendo dei laboratori di politica nazionale, qui stiamo decidendo chi nei prossimi 5 anni governerà questa regione. È l'ora di farla finita nel trasformare le elezioni in uno scontro per qualcos'altro. E Renzi si concentra anche sull'Europa. Il vento della Grecia, della Spagna e della Polonia non soffia nella stessa direzione, ma tutti dicono che l'Europa deve cambiare. Esiste una terza via tra rigido formalismo legato all'austerity e demagogia del tutti contro l'euro. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Tappa in Umbria per il tour elettorale di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ad Assisi per sostenere il candidato del centrodestra, Claudio Ricci, oggi è tornato anche sulla questione della futura leadership della coalizione. Chiunque vorrà guidare il centrodestra dovrà dimostrare nei fatti, con il consenso, di essere capace di aggregare forze diverse ma compatibili, ha detto il leader di Forza Italia replicando a Matteo Salvini, che ieri si è proposto come prossimo sfidante di Renzi. Proprio il leader leghista, intanto anche lui impegnato in una serie di appuntamenti elettorali in Umbria e nelle Marche, oggi a Pesaro è stato di nuovo contestato da un gruppo di antagonisti. Di regionali ha parlato invece da Milano Beppe Grillo, che oggi ha partecipato come azionista all'assemblea di Ferrovie Nord. Dobbiamo vincere le regionali per poi abolire le regioni, è meraviglioso. Se non vinciamo noi non le aboliranno mai. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto c'è un'altra fumata nera per la scuola invece, tra sindacati e la ministra di istruzione Stefania Giannini. C'è stato un altro incontro, ma di nuovo nulla di fatto, quindi lo sciopero sugli scrutini rimane. L'impianto non si cambia, ha ribadito la ministra Giannini, nessun ripensamento sulla chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi e la stabilizzazione di tutti i precari. Invece, per quanto riguarda le notizie dall'estero, a Palmira, in Siria, sono centinaia le persone uccise dall'ISIS. La ministra della difesa Pinotti ha detto: se servirà daremo un aiuto più forte. Intanto arriva un allarme del Times in Gran Bretagna, si parla di una minaccia crescente di attacchi attraverso delle bombe al cloro, quindi possibili attacchi chimici. Siamo di nuovo in Italia con le novità nella vicenda del ragazzo padovano morto in gita a Milano. Sono stati sequestrati i cellulari dei compagni di classe che erano con lui e, secondo gli inquirenti, almeno fino al momento, i racconti da parte di alcuni suoi compagni di Domenico Mauro Antonio possono essere utili. E poi, dopo la vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura di Roma chiude un altro caso della storia italiana. Il GIP di Roma ha archiviato l'inchiesta dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, morto di Toscano, di Ostia, il 2 novembre 1975, quindi è stata accolta la richiesta della Procura. Poi un'altra brutta notizia di cronaca: vicino a Pordenone, a San Martino al Tagliamento, una bimba di 2 anni e mezzo è morta dopo essere stata zannata da un cane, un pastore tedesco, nel cortile dell'abitazione di una parente, e il padrone di questo animale rischia di essere incriminato per omicidio colposo. Un ispettore di polizia di 52 anni in servizio in un commissariato di Torino è stato arrestato dai colleghi con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 14enne figlia di una donna conosciuta in chat. E siamo adesso all'argomento delle unioni civili. Dopo il voto favorevole dell'Irlanda sul referendum relativo ai matrimoni gay, l'Osservatore Romano, il giornale del Vaticano, dice: nessun anatema, ma piuttosto bisogna riconoscere la realtà dei fatti. Del resto, troppo ampio è stato il margine fra i sì e i no per non accettare la sconfitta. Questo aggiunge il giornale della Santa Sede. E Renzi annuncia una legge sul modello tedesco per luglio. L'Italia ha una proposta di legge, è stata presentata dalla senatrice Cirinna, e sarà votata nel mese, credo, tra giugno e luglio a settembre. Anche in questo caso è sul replica il modello tedesco, esattamente come stanno le cose in Germania. Diverso dal modello irlandese, ma è un modello che io credo possa funzionare e avere i voti in Parlamento. E sempre a proposito di tema delle unioni gay, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di patrocinare la Milano Pride, la settimana di manifestazioni promosse dal mondo LGBT a Milano dal 22 al 28 giugno, e decisivo è stato proprio il voto del rappresentante della Lega Nord, Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Consiglio regionale, il cui voto si è aggiunto ai due dell'opposizione, PD e Movimento 5 Stelle. 3 sì quindi su 5 voti. Il partito, però, la Lega Nord, si dissocia e il capogruppo Massimiliano Gaetano Romeo spiega il vicepresidente Cecchetti ha espresso una posizione propria e del tutto personale. Siamo al calcio, abbiamo parlato soprattutto dei fatti di cronaca, dei brutti fatti di cronaca prima e dopo questo derby ad alta tensione. In ogni caso la Roma ha vinto sulla Lazio 2-1, è vero Dario Ricci? Sì, lo confermo, ecco. Ormai la notizia ufficiale, Roberta, la Roma ha vinto il derby, ha conquistato così il secondo posto matematicamente, quindi l'accesso diretto alla Champions League, che in soldoni vuol dire appunto parecchi milioni di euro già garantiti, il biscottone, quello che era previsto, no Patrizio, se vuoi ti spiego anche perché si dice biscotto. Sì, sì, sì, dici cosa significa, perché dovete sapere che Dario Ricci si aggirava nella redazione, oggi vedete il biscotto, invece il biscotto. La sua capacità preveggente, sì, diciamo, è stata disattesa. Sarebbe stato chiaramente più conveniente per entrambi sulla carta un accordo, no? Quindi biscotto è un accordo, sì, tra perché le due deriva... squadre, non le combine, le cose. No, le cose no, no, è un accordo, è diciamo, di buon senso, come a dire non facciamoci troppo male. Deriva, lo voglio dire per far sembrare che sia curioso e intelligente, dal biscotto che veniva utilizzato per truccare le corse di cavalli, perché veniva spesso bagnato con qualche droga, con qualche droga anestetica, capito? Detta questa cosa, il biscotto sarebbe stato conveniente sia alla Roma, perché l'avrebbe avvicinata pressoché definitivamente al secondo posto, sia alla Lazio, perché avrebbe messo fuori gioco, cioè, il decidere Napoli. Di pareggiare tra loro. Sì, avrebbe messo fuori gioco il Napoli dalla corsa alla Champions, e domenica invece c'è proprio Napoli-Lazio. Invece la vittoria della Roma regala il secondo posto ai giallorossi, ma fa precipitare la Lazio in una settimana di tensioni, perché derby perso e... domenica c'è proprio Napoli-Lazio, in caso di vittoria partenopea ecco lì che il Napoli diventerebbe terzo e entrerebbe nei preliminari di Champions, e la Lazio nel giro di pochi giorni avrebbe perso Coppa Italia e terzo posto. Probabilmente perché la Roma si sentiva più forte già di partenza, ha detto che ci conviene fare questo accordo sotto banca del biscottone. Ma anzi, devo dire che forse, visto il momento, è la Lazio la squadra più in forma, solo che poi in 12 minuti con la rete decisiva all'85esimo di Yang Ambiwa, il francese che di testa ha battuto Marchetti e quindi ha riportato in vantaggio i giallorossi, dopo la rete di Turbe, il pareggio momentaneo laziale di Djordjevic, ecco, in questi 12 minuti si è scritto il destino di questo derby, che poi giallorossi Totti in primis hanno festeggiato con le magliette con la scritta Game Over rivolta ai laziali, la grande bellezza rivolta chiaramente alla loro prestazione, e si è giocato anche una bella fetta di milioni e di stagione. Però tutto sommato, da Luigi, chiudendo, direi che tutto, al di là di chi abbia vinto o chi abbia perso, è meglio così, che si giochi la partita fino all'ultimo senza fare accordi, no? Tutto sicuramente sì, anche se poi in questo caso il cosiddetto biscotto rimaneva in un ambito tutto sommato sportivo, perché ci può stare, no? Però un biscotto amaro per la Lazio, insomma. Brava, indovinato il titolo, eccolo qua, cioè, ho le prove, il titolo del mio servizio, no, di domani. L'hai letto? Giuro, ero molta distanza da te, quindi c'è sintonia, è sintonia questa. Grazie Dario Ricci. Grazie. Adesso ci sentiamo tra poco, dopo la viabilità. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Uno sguardo ai vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia sui sms al 349-238-6666. Gabriele da Cento scrive: la vittoria del matrimonio gay è un segno di decadenza del nostro tempo e la sinistra mondiale ne è colpevole, c'è da piangere, dice Gabriele. A proposito dell'input che vi ho lanciato questa sera, dopo il voto sul referendum favorevole ai matrimoni gay in Irlanda, dopo che l'Osservatore Romano ha detto che bisogna prendere atto che la realtà è cambiata, Renzi ha detto questa sera a luglio dovrebbe esserci una legge, dovrebbe passare alle Camere una legge sulle unioni civili. Vi chiedevo, secondo voi è la volta buona? Come dice Renzi, usa questo slogan, la volta buona, per altri aspetti del suo governo. Poi dice invece qualcuno: come invidio gli spagnoli, ma perché da noi una vera sinistra non decolla? Noi dobbiamo tenerci due Matteo, che figata, dice Clotilde. Poi ancora: unioni civili peggio, ma molto peggio dell'ISIS, dice Heinz. Addirittura, quindi unioni civili che praticamente creano distruzione fisica e anche architettonica. Poi Franco dice: Podemos e Tsipras non vanno confuse con la Polonia, i primi due non sono euroscettici ma sono a favore della crescita. La Polonia ha vinto un populista, sì, un ultranazionalista, ne parleremo dopo. Franco, adesso invece le notizie più importanti e poi ci sarà la sottosegretaria Bellanova. Vediamo se scuote l'Europa in Spagna un terremoto politico, dice Renzi, ma né austerità né no euro, ci vuole una terza via. L'Europa, avverte Renzi, deve cambiare. Effetto Jobs Act ad aprile, 48.000 posti fissi in più, ma la segretaria generale della CGIL Camusso dice: temo delusioni dal tavolo con il governo, tra poco ne parleremo. Grecia, ogni sforzo per pagare il Fondo Monetario Internazionale, presto ci sarà l'accordo. Rush finale per le regionali in Italia, ma per il governo non cambia, dice il presidente del Consiglio Renzi, che lancia la sfida in Liguria alla minoranza Berlusconi. La Roma vince il derby 2-1 alla Lazio e Champions diretta, però ci sono stati due accoltellati, alta tensione in città anche nel dopogara. Lo studente morto in gita, sequestrati i cellulari dei compagni e degli amici, dicono gli investigatori, dai suoi alcuni amici ci sono racconti utili. Poi l'ISIS che fa paura, a Londra scatta l'allarme per possibili attacchi chimici, un pulmino che si schianta con la barriera dell'A16, quattro operai morti, notizia di questa sera. Dunque, concentriamoci sulle buone notizie. Le buone notizie che arrivano dal mercato del lavoro giungono dritte dritte dal Ministero del Lavoro e dicono che crescono le assunzioni anche grazie alla riforma del lavoro, il famoso Jobs Act. Ad aprile ci sono stati, secondo questi dati del Ministero, 210.000 nuovi contratti e 48.000 sono a tempo indeterminato. Ci sono vari numeri, il saldo attivo di oltre 48.000 contratti stabili, però per fare un po' di chiarezza tra questi vari dati, interpello immediatamente la sottosegretaria al lavoro Teresa Bellanova, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Quindi vedevo che da alcune parti c'è scritto che il saldo è 48.000, da altre sono numeri superiori. Quali sono? La matematica non è il mio forte, dottoressa Bellanova. Guardi, i contratti che sono a tempo indeterminato sono in notevole aumento. Parliamo con percentuali, così forse è più facile rendere l'idea. Sì. Noi passiamo nel raffronto tra aprile 2015 e aprile 2014 dal 15% di contratti a tempo indeterminato al 22%. Anzi, il 22,7% per la precisione. Mm. E questo, diciamo, mi pare un segnale molto importante. Poi c'è un altro segnale che, come dire, mi fa davvero piacere mettere in evidenza, che è quello dei contratti a termine per quanto riguarda il lavoro delle donne. Noi passiamo dal 41.000 contratti attivati lo scorso anno, sempre nel mese di aprile 2014, a 63.000 contratti attivati nel mese di aprile del 2015 a tempo indeterminato. Io direi che questo, diciamo, è sicuramente non la soluzione del problema, ma è un bel segnale che francamente spero si rafforzi e continui anche nei mesi successivi. Quindi, sottosegretaria Bellanova, siccome molti fanno un po' confusione tra il numero di nuove assunzioni e invece quelle che sono le trasformazioni, cioè da un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, anche se io le devo confessare che ogni tanto, così faccio la battuta e dico che, come si dice che l'amore è eterno finché dura, adesso che non c'è più l'articolo 18, anche il contratto a tempo indeterminato è indeterminato finché dura. Ma i contratti a tempo indeterminato, francamente, le posso dire per la mia esperienza, sono a tempo indeterminato finché durano i piani industriali, perché io proprio in questi giorni sono impegnata su tavoli di trattativa molto complicati, dove contratti a tempo indeterminato vengono messi in discussione per progetti industriali che prevedono altre scelte. Allora, io proverei a metterla in questo modo. Lasciamo fuori l'ideologia nel valutare i dati, teniamo a mente le persone. Una persona che aveva un contratto di collaborazione, un contratto a tempo determinato, e che le viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, è una persona che può andare in banca e avere accesso a un mutuo esattamente come era con il contratto a tempo indeterminato in precedenza. Questo migliora la vita delle persone e io credo che questo è un dato importante. Poi possiamo dividerci e discutere in mille modi sulle modalità delle leggi, come sono state fatte, dei contenuti delle leggi, ma per quello che incide sulla vita delle persone dovremmo provare a rispettare i riflessi che queste leggi hanno sulle persone. Io quando vedo i dati come quelli di oggi non dico che noi abbiamo risolto il problema, perché è un approccio molto equilibrato alle questioni, però vorrei che tutti mettessimo a valore un dato positivo, perché in questo paese, se leggiamo con occhi negativi anche i dati che parlano in positivo, noi distribuiamo solo dosi massicce di pessimismo tra persone che hanno bisogno di tornare a sperare sulla base di dati reali, non di chiacchiere che andiamo a raccontare loro. Quindi ci sono appunto un tot numero di trasformazioni che, dicevamo, certamente, come dice lei, comunque un dato positivo da tempo determinato in tempo indeterminato, e anche nuove assunzioni. Sono tutti effetto del Jobs Act? Era qualcosa che si era già messo in moto comunque già da gennaio? Forse già c'erano nella legge di stabilità gli sgravi fiscali, no? Sottosegretario Villanova. C'erano nella legge di stabilità gli sgravi fiscali, che erano collegati direttamente al disegno di legge delega che stavamo discutendo. E poi, come dire, la cosa che mi piace, diciamo, mettere in evidenza è che se ci sono queste trasformazioni è per effetto delle leggi, ma anche per effetto del fatto che incomincia a ripartire l'economia, magari lentamente, con meno forza di quello di cui abbiamo bisogno, però se si trasformano contratti è perché l'economia ha bisogno di avere più lavoro. E mi lascio aggiungere che per combattere la precarietà e andare verso i contratti a tempo determinato vuol dire che dobbiamo passare anche dalla trasformazione dai contratti precari a contratti a tempo indeterminato, e questo voglio ricordarlo a tutti i critici delle norme che abbiamo fatto. Se i contratti precari, se i contratti di collaborazione vengono trasformati in contratti a tempo indeterminato, vuol dire che effettivamente stiamo superando o stiamo avviando a superamento quel eccesso di precarietà che nel nostro paese si era determinata. Per chiudere, sottosegretaria Bellanova, lei mi parlava prima di trattative, difficili tavoli di trattative a cui lei sta lavorando in questi giorni, c'è la Whirlpool immagino anche in mezzo, come sta andando? Esatto, e non solo. Come sta andando con Whirlpool? Beh, per adesso abbiamo invitato l'azienda proprio perché vuole mettere in discussione 2000 posti di lavoro, di cui tutti a tempo indeterminato, 815 solo nel stabilimento di Carinaro in provincia di Caserta, che significa la desertificazione totale di quell'area. Abbiamo invitato l'azienda a riflettere seriamente, a rivedere il suo piano industriale, e nel momento in cui fa questa revisione riconvocheremo il tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove lo conduciamo insieme con la ministra Guidi. E anche lì, come dire, ci stiamo misurando appunto con un piano industriale che mette in discussione non rapporti precari, ma rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo chiesto all'azienda non solo di non operare licenziamenti fino al 31 dicembre del 2018, ma di andare anche oltre. Questo si può fare attraverso piani industriali che devono essere rivisti, attraverso investimenti sulla qualità dei prodotti, attraverso la ricerca di nuovi mercati, attraverso una fidelizzazione anche delle professionalità all'interno degli stabilimenti, e mi va a subire infine anche attraverso la difesa di uno stabilimento simbolo come quello di Carinaro in Campania. Un'ultimissima domanda, poi la lascio andare, sottosegretaria Bellanova. L'obiettivo vostro di occupazione, di percentuale di contratti di occupazione nell'arco del 2015, ce l'avete in mente una previsione o un obiettivo, insomma? Guardi, un paese che ha il 43% dei ragazzi e delle ragazze che non hanno un lavoro, e nel mezzogiorno oltre un ragazzo su due, perché siamo abbondantemente sopra il 50%, l'obiettivo che ha è il massimo possibile, per questo lavoriamo. E allora buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi. Arrivederci. Adesso, prima di lasciarci, ancora due messaggi. Roberto da Modena, spiritoso, dice Ricci, da Ricci, che adesso va a cambiare il titolo, ha preso la palla al balzo, furbone, cioè quello che ho suggerito io, non è vero che l'ha già scritto prima lui, il biscotto amaro, grazie Roberto della solidarietà. E poi Daniele da Forlì dice, quello che fa tristezza è vedere quanto l'omofobia sia ormai radicata e interiorizzata negli italiani e sia difficile farla andare via. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con i vostri messaggi al 349-238-6666 e poi quelli sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di tutte le ultime cose che sono successe, per esempio sulle unioni civili e anche l'annuncio che ha fatto in serata Renzi dicendo che a luglio ci sarà una legge che passerà alle Camere, appunto sulle unioni civili, sul modello tedesco e non quello irlandese. Sapete che hanno votato per i matrimoni, c'è stato questo referendum favorevole in Irlanda. Secondo voi è la volta buona? Davvero a luglio ci sarà questa legge? In ogni caso, adesso vi ricordo quali sono le altre notizie principali. La crisi greca, col governo che assicura faremo ogni sforzo per pagare il Fondo Monetario Internazionale, tra poco ne parleremo. Poi le elezioni spagnole con il grande successo di Podemos che scuote l'Europa per l'occupazione. Abbiamo appena parlato dell'aumento dei posti di lavoro e dei contratti trasformati con la sottosegretaria al lavoro Bellanova, e per la politica italiana sappiamo che questo è il rush finale, l'ultima settimana di campagna elettorale. Siamo al voto in Spagna, le elezioni amministrative, sapete che hanno visto il successo del partito Podemos che prende Barcellona e Madrid. Il Partito Popolare è sempre il primo partito ma è in netto calo, e questo potrebbe essere forse un importante test in vista delle elezioni politiche di novembre. Ma ne parliamo con Gianfranco Pasquino, politologo notissimo. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, ci sono state reazioni a questo grande successo di Podemos. Renzi ha detto il vento della Grecia, il vento della Spagna, il vento della Polonia, perché anche lì ci sono state le presidenziali e ormai da questo ballottaggio si sa che dovrebbe aver vinto l'ultranazionalista che era antagonista del presidente uscente. E Salvini dice, ecco, Renzi dice, tutto questo ci dice che l'Europa deve cambiare in ogni caso, che ci sia la svolta a sinistra della Spagna o la svolta a destra della Polonia, l'Europa deve cambiare. Salvini, il leader della Lega, ha detto: il risultato elettorale della Spagna e anche il voto in Polonia sono una bella mazzata per i difensori dell'Europa, delle banche e per i servi di Bruxelles. Come la legge lei questo voto amministrativo in Spagna? Ma certamente lo scontento nei confronti delle politiche che vengono attuate e imposte a livello di Unione Europea contano però anche molti elementi che sono tipicamente nazionali, cioè la Polonia non ha nulla di cui lamentarsi per quello che è successo dopo la sua adesione all'Unione Europea, anzi ne ha tratti enormi vantaggi. Il fatto che c'è comunque un nazionalismo di destra con alcuni elementi di xenofobia in Polonia che ha favorito la vittoria di Duda, però è un'altra storia, tutta un'altra storia rispetto alla Grecia, che invece molto deve lamentarsi per come l'Unione Europea non ha saputo consentire alla Grecia di uscire dalla sua crisi già nel 2011. È abbastanza, ma anche qui non tantissimo, hanno da lamentarsi gli spagnoli, perché tutto sommato l'Unione Europea invece si è comportata piuttosto bene nei loro confronti. È vero che c'è ancora un alto tasso di disoccupazione, però tutto sommato la Spagna sta uscendo dalla crisi, e quindi quello che succede in Spagna è soprattutto un fenomeno politico di attivazione, di mobilitazione dei giovani contro i due partiti maggiori che erano sembrati un po', diciamo così, sclerotizzati. Quindi cause abbastanza diverse e comunque non si può riversare la colpa di quello che succede tutto sull'Unione Europea. È una spiegazione semplicistica e sostanzialmente inadeguata. Il leader di questo movimento Podemos si chiama Pablo Iglesias, classe 1978, figlio di un'avvocata del sindacato Commissioni Operaie e di un ispettore del lavoro che è anche docente di storia, ha due lauree, ha fatto una tesi sulla disobbedienza civile e le proteste contro la globalizzazione, questo nel 2008, quindi si stava già preparando. Può essere quindi effettivamente, professor Pasquino, questo un test per le elezioni politiche che in Spagna ci saranno a novembre, quindi può essere un anticipo questo di come potrebbe andare? Sì, per l'appunto, più che un test è un anticipo, cioè non c'è dubbio che sia Podemos che, non dimentichiamolo, anche i Ciudadanos hanno provato a mettere in campo, come si dice in politichese, le loro liste. Entrambi hanno avuto un buon successo, Podemos un successo diciamo all'altezza delle sue aspettative, un successo consistente che consentirà a Podemos di determinare anche la formazione dei governi locali in non poche zone della Spagna. Che cosa vuole Podemos, professore? Podemos vuole delle politiche di crescita e non solo di austerità, vuole una Spagna più forte a livello di Unione Europea, vuole un ricambio generazionale. Iglesias è giovane, ma molto giovani sono anche, lo dicono tutti i sondaggi, i suoi elettori, vuole una Spagna più dinamica, meno burocratizzata e anche, come ho detto, meno dipendente dall'Unione Europea, anche se questo impareranno molto presto che nell'Unione Europea ci siamo e dobbiamo pagare tutti un prezzo per starci, perché poi ci sono vantaggi consistenti che ne conseguono. Bene, professor Pasquino, io la ringrazio. Adesso ci sentiremo prima di novembre, immagino, comunque. Benissimo. Grazie. Benissimo. Grazie, grazie professor. A voi. Buonasera. Buona serata. E dalla Spagna invece alla Grecia, che fa insomma tribola lei stessa, insomma sicuramente la situazione non è facile, capire dove sono le colpe, forse sono metà e metà, comunque c'è il timore della Grexit, come si dice, cioè che la Greca esca dall'euro, si fanno in certi momenti questi timori più fondati. Ne parliamo con Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Buonasera. Che è anche autore del libro La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato, che poi il waterboarding è una tortura terribile, quindi vuoi dire che la Grecia è stata torturata, martoriata, maltrattata? Sì, esattamente. Nel momento in cui c'è stato il primo salvataggio della Grecia nel 2010, invece di dare, come avviene in questi casi, cioè si fa un piano di rientro, si fanno dei prestiti, si fanno delle riforme per rimettere a posto i conti, però si fa anche un terzo punto, il Fondo Monetario lo fa sempre, cioè riduce, si fa il cosiddetto haircut, cioè il taglio del debito. Nel caso greco questo non è stato fatto e quell'errore iniziale, poi ci sono stati anche altri errori, fra cui una valutazione eccessiva degli impatti, cioè l'impatto dell'austerity è stato calcolato in maniera molto meno efficace di quanto poi è avvenuto, cosiddetto coefficiente appunto di impatto sulla crescita, e in sostanza ci sono stati questi errori che hanno portato alla situazione attuale, un intero 25% di PIL in meno, che ha ridotto proprio la crescita, ha portato la disoccupazione al 26% e a una situazione dove appunto il paese è sostanzialmente ancora in una richiesta di aiuti, probabilmente non basteranno ancora perché non si è mai fatto quel famoso taglio del debito. Quindi in questo mezzo minuto che ci rimane, come se ne esce, Vittorio? Non so se in mezzo se minuto. Se ne esce sempre con un classico compromesso, cioè Siriza, che ha fatto delle promesse elettorali, dovrà fare delle leggere, diciamo, marce indietro, comunque rivedere alcune di queste promesse, e gli europei fare a loro volta qualche concessione in più, dare più tempo per applicare le riforme strutturali che non possono essere fatte senza appunto anche elementi di crescita e di investimento e di una riduzione o un allungamento dei termini del debito. Quindi ognuno deve fare un po' un passo verso l'altro e cercare di capire le ragioni delle due parti, altrimenti non se ne esce. Grazie Vittorio D'Arolda. Grazie a voi. Ciao Vittorio. Sapete che oggi c'è la versione breve, il lunedì, di Effetto Notte, quindi vi lascio tra poco la rubrica dedicata agli autotrasportatori. Ci risentiamo giusto alle 22 per ricordarvi le notizie più importanti, molti vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di tutte queste novità che riguardano l'Unione Civile e l'Unione Gay. A dopo.